Salva Danaio di Deborah Rosciani. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Anche con il nostro programma abbiamo voluto concedere un tributo a questa festività di oggi. Siamo regolarmente in onda in concomitanza con le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Naturalmente abbiamo fatto un po' di fatica a trovare un argomento a tema con questa celebrazione così importante. Ci abbiamo provato un pochino, ma in realtà la nostra scelta è stata quella di organizzare così una trasmissione un po' più leggera, parlare di turismo, perché ci sono molte famiglie che si sono prese questo lungo ponte di riposo, e allora ci è venuto in mente di parlare proprio di questo. Magari c'è anche chi sta pensando a come attrezzarsi per le prossime vacanze di Pasqua. Allora stamattina abbiamo voluto fare due cose: intanto mantenere, perché ci sembra corretto e doveroso farlo, una finestra sul Giappone, in quanto l'impatto del disastro giapponese, lo tsunami, il terremoto, è evidente ancora sul mercato. Poi vi dirò quello che sta accadendo stamattina sui mercati finanziari, ma si sta già discutendo anche delle ripercussioni sul settore turistico. E quindi di questo parleremo nella prima parte di Salva Danaio, poi vi spiegherò come. Lasciato da parte il Giappone, vorremmo darvi stamattina anche un'idea originale di vacanza, che è quella che stanno mettendo in pratica da qualche anno a questa parte un numero crescente di italiani. La proposta dello scambio casa, che forse molti di voi conosceranno perché avranno visto il divertente film con Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet, L'amore non va in vacanza. Come funziona questa modalità? È adatta a tutti? Dove troviamo le offerte? Se vogliamo mettere a disposizione la nostra bella abitazione e chiaramente chiedere in cambio di avere l'ospitalità di un'altra famiglia magari in tutt'altra parte del mondo, a chi ci rivolgiamo, come dobbiamo fare? Soprattutto è vero che è, come dire, una pratica per fare una bella vacanza con un budget molto limitato, un'altra modalità low cost per fare una bella vacanza. Cercheremo di capire anche quali costi vanno sostenuti. Allora 800 24 00 24 stamattina per discutere con noi di tutto questo. I nostri interlocutori per il tema dello scambio casa saranno, nella seconda parte di Salva Danaio, Cristina Pagetti, responsabile ufficio stampa e assistenza clienti di scambiocasa.com, e Giovanni Pugliatti, rappresentante invece per homelink.it. Per la prima parte, quella relativa alle ripercussioni della crisi giapponese nei rapporti turistici fra Italia e Giappone, anche questa mattina abbiamo trovato il consueto modo per disturbare il presidente di ASTOI, l'associazione dei tour operator italiani, Roberto Corbella, che saluto. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Sta celebrando oggi da qualche parte la ricorrenza dell'Unità d'Italia. Dove si trova? Nella capitale. Nella capitale, giustamente. Un po' piovosa purtroppo, ma guardi, con molte manifestazioni. Non le dico che cosa non sta succedendo a Milano in questi giorni, veramente ci stanno annaffiando, letteralmente. Peraltro, allora, si trova a Roma, volevo anche dare qualche cifra che ha rilasciato in questi giorni il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che ha detto: in questo ponte del 17 marzo saranno in vacanza almeno 4 milioni di italiani, l'85% resterà in Italia spendendo circa 900 milioni di euro. Bocca ha detto: un risultato che rispecchia un innato spirito patriottico che può costituire un segnale di ripresa dei nostri di questo appunto nostro settore economico. Però ecco, visto che anche noi volevamo in qualche maniera fare qualche riferimento alla festività dell'Unità d'Italia, ci piaceva anche segnalare quanto ha dichiarato il presidente della Federalberghi. Quindi italiani che anche in questa circostanza hanno voluto dimostrare in questo modo, scegliendo delle località italiane per trascorrere questi giorni, questo loro innato spirito patriottico. Però, presidente Corbella, il tema che invece sta preoccupando non pochi tour operator in queste ore è la tragedia giapponese. La Farnesina ha ovviamente sconsigliato di intraprendere viaggi in Giappone per ragioni che non siano strettamente necessarie ed urgenti, e i tour operator, grazie al protocollo d'intesa previsto in questi casi, stanno consentendo a chi aveva organizzato una partenza di modificare le date del viaggio, scegliere destinazioni alternative o rescindere il contratto. Ci sono state molte rinunce, secondo quello che risulta dal vostro osservatorio, presidente, di viaggi verso queste località, e soprattutto quanti italiani andavano per per esempio nel nord-est del Giappone, che è la parte più colpita dalla tragedia dello tsunami. Allora, intanto dobbiamo dire che la stagione più importante per la meta Giappone non è ancora iniziata, diciamo cominciamo un po' dalla Pasqua in poi, quindi non c'erano al momento tantissimi turisti presenti in Giappone, e soprattutto nella zona colpita non è una di quelle più gettonate dal turismo. Il circuito classico prevede normalmente Tokyo, Osaka, Kyoto, queste sono le mete più visitate dai nostri turisti. Quindi da questo punto di vista, per fortuna, la situazione non è stata drammatica, c'era qualche centinaio di turisti presenti con viaggi organizzati in quel momento, sono rientrati in Italia. Va detto anche che il Giappone è una di quelle mete che si programmano con largo anticipo, contrariamente a quelle che sono le abitudini classiche degli italiani, perché è un viaggio abbastanza impegnativo, quindi normalmente c'è quello che si chiama in gergo advance booking. Quindi al momento non ci sono segnali di particolari cancellazioni, perché tutti stanno aspettando di vedere cosa succede, come evolve la situazione. È chiaro che siamo tutti molto preoccupati di questa situazione nucleare, speriamo che si risolva soprattutto per i giapponesi prima di tutto al meglio, e che non dia conseguenze al paese, quindi che non impedisca anche una fruizione turistica per questa destinazione. Ecco, un altro aspetto non rilevante è, come dire, guardare il fenomeno al contrario. Ho letto una sua dichiarazione ieri rilasciata al presidente Corbella ad un'agenzia stampa, diceva se si dovesse protrarre per qualche mese il fermo del Giappone creerebbe un danno non indifferente anche al nostro turismo, perché ci sono molti giapponesi che vengono qui e rappresentano una voce importante per il turismo italiano, sia numericamente ma anche di più come capacità di spesa. Assolutamente sì, diciamo che sono circa 800.000 ogni anno i giapponesi che vengono in Italia, quindi un numero importante, e poi anche una capacità di spesa significativa. Normalmente i giapponesi viaggiano in una fascia medio-alta, e quindi laddove si dovesse protrarre questa situazione porterebbe una grave penalizzazione per il mercato Italia, per il mercato ricettivo. Va detto che anche i giapponesi sono abituati a essere molto strutturati, a programmare con largo anticipo le loro vacanze eccetera, quindi questa situazione è sicuramente di incertezza, di crisi economica che si può abbattere sul paese, di rallentamento di tutto il loro flusso, li porterà probabilmente a rivedere in maniera anche significativa. Ovviamente dipende da quanto è lungo tutta questa situazione di crisi. Ma anche perché il tema adesso è l'emergenza nucleare più che il terremoto o la possibilità che arrivi un altro tsunami. Qui c'è un'altra emergenza che sta maturando, che potrebbe assumere dei contorni ancora più drammatici rispetto a quelli che si sono già visti tra venerdì e sabato, Presidente, no? Purtroppo sì, questo è il primo tema, e poi anche come ricadute ci può essere una conseguenza di tipo economico che può mettere in difficoltà molte persone che erano in qualche modo coinvolte nelle varie fasi dell'economia. La zona colpita dal terremoto e dallo tsunami è una zona molto importante per esempio per la pesca, quindi ma anche la fornitura di componenti elettronici che vanno in tutto il mondo può essere rallentata. Quindi dobbiamo vedere quale sarà l'impatto. Sappiamo che i giapponesi sono una popolazione molto attenta, molto rigorosa, poco avvezza allo schiamazzo e manifestazioni eccessive, però molto consapevole di quello che succede, molto responsabile. Quindi potrebbe essere che decidano di lavorare ancora più di quello che fanno normalmente e che mettono in secondo piano quelle che sono le loro vacanze. Benissimo. Quindi sicuramente sì, una ripercussione ci sarà, certo, per quanto riguarda il nostro paese. Presidente Corbella, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro di poter continuare serenamente a trascorrere questa giornata di vacanza. A presto, alla prossima. Speriamo, grazie, come sempre le dico, le prometto sempre di richiamarla in una situazione che non sia di emergenza. Come vede, faccio sempre molta difficoltà, però magari in vista dell'estate cercheremo di alleggerire anche le nostre conversazioni con lei. Buona giornata, a presto, grazie. Grazie. Anche voi. Buona Noi giornata. Invece adesso andiamo ad esplorare un'altra modalità di vacanza, una modalità di vacanza che molte famiglie italiane stanno appunto hanno scoperto negli ultimi anni, che è quella dello scambio casa, una modalità appunto che ci è stata riproposta in versione cinematografica, in questo film delicatissimo, molto carino, che l'amore non va in vacanza, però insomma al di là della finzione, al di là della cinematografia, è una pratica di fare una vacanza, una pratica per fare una vacanza a costi anche abbastanza contenuti, scoprendo anche delle belle sorprese allo scambio casa. Sentiamo di che cosa si tratta. Alle vacanze, si sa, non si rinuncia volentieri. Ma se i soldi non ci sono, come fare a risparmiare? Gli espedienti per non appesantire troppo il portafogli partendo comunque per la meta prestabilita sono molti. Un fenomeno che ha preso piede negli ultimi anni è quello dello scambio casa. Su internet sono molti i siti che permettono, previa iscrizione, questo tipo di viaggio. Si tratta di una vacanza alternativa, in cui due famiglie si accordano per scambiarsi la casa per una vacanza. Tu stai a casa mia, mentre io sono nella tua. In questo modo si può andare in vacanza senza spendere davvero nulla, eccetto il costo del viaggio. Se ci si mette d'accordo, poi, lo scambio può coinvolgere anche l'automobile, oltre alla possibilità di lasciare in custodia animali e piante durante la propria assenza. A garantire il successo dello scambio sono i siti stessi, tramite le valutazioni degli iscritti, che possono dar luogo anche alla cancellazione degli utenti indisciplinati. In alcuni casi, poi, lo scambio prevede un'assicurazione vera e propria, ma, come per altre forme di scambio online, è la propria reputazione la maggiore forma di garanzia. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande se vi interessa questa modalità per fare una vacanza a costi ragionevoli, magari raggiungendo una località che non avreste mai pensato di poter raggiungere, proprio perché immaginavate che fosse talmente costoso, non solo per il viaggio ma anche trovare un posto dove stare. E allora sappiate appunto che da qualche anno a questa parte molte famiglie stanno scegliendo l'opzione dello scambio della casa. Abbiamo interpellato questa mattina i due intermediari più grandi che conosciamo nel nostro mercato. Allora, intanto saluto e ringrazio per essere con noi Cristina Pagetti, che avevamo già sentito in un'altra puntata qualche tempo fa, entrambi erano stati con noi. Cristina Pagetti di scambiocasa.com, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E buongiorno anche a Giovanni Pugliatti, rappresentante invece di homelink.it, buongiorno. Buongiorno e auguri a tutti. Tra l'altro, grazie altrettanto anche a voi. Abbiamo chiamato anche Giovanni Pugliatti perché adesso poi ci spiegherà magari bene la modalità di gestione di questa azienda, che credo sia la titolare di Homelink, perlomeno la rappresentante italiana, sia Annalisa Rossi Pugliatti, che è la mamma di Giovanni e che ha scritto peraltro un libro, Vai avanti tu, poi se ti trovi bene mi iscrivo anch'io, Avventure di scambio casa raccolte da Annalisa Rossi Pugliatti. Perché il tema è che queste persone che hanno allestito questi siti per lo scambio casa, prima di tutto hanno provato direttamente in che cosa consiste questa esperienza. Giovanni, è così? Sì, confermo pienamente. Noi siamo iscritti infatti dall'83, quindi diciamo che quasi tutta la mia vita è stata passata in vacanza in questo modo. La mia famiglia appunto scambia da sempre e da alcuni anni si è occupata di amministrare proprio Homelink Italia per la versione italiana di Homelink. Perché questo è un network internazionale, no? Esatto, è un'associazione nata nel 1953 in America da una coppia di insegnanti che quasi per gioco hanno compilato una lista di altri insegnanti che sarebbero stati disposti a scambiare la casa con loro. Poi, dando questa lista a tutti i partecipanti, in qualche modo hanno creato il primo nucleo di questa associazione. Quindi dal 1953, voi l'avete scoperta nell'83, ma in Italia diciamo la storia è un po' più recente, nel senso che praticamente le famiglie italiane che credo abbiano cominciato a viaggiare secondo questa modalità sia una storia un po' più recente. Magari lo chiedo a Cristina Pagetti, poi sì. Dopo ci racconterà anche di scambiocasa.com, che anche in questo caso è la declinazione italiana di un network internazionale. Sì, certo. Allora, noi siamo i referenti per l'Italia di homeexchange.com, un'organizzazione internazionale che è nata nel 92 in California. E il grande successo dello scambio casa è sicuramente dovuto al successo di internet e del web, perché grazie al web è possibile velocemente consultare le schede degli altri soci e proporsi per uno scambio. Prima tutto funzionava con dei grossi cataloghi che arrivavano ma che non erano così aggiornati come lo è il web. Un socio che si iscrive può subito essere visibile a tutti gli altri soci. Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Ma sì, anche noi oggi celebriamo l'unità d'Italia con questo accompagnamento musicale, questa canzone che tutti probabilmente conosciamo bene, Francesco De Gregori, ma parliamo di turismo, anche italiano se vogliamo. Noi oggi così vi vogliamo raccontare come funziona, se avete in mente così magari di andare a visitare una capitale molto lontana dalla vostra città originaria, oppure anche se volete andare in una località non tanto lontana dalla vostra, ma perché non avete mai visto magari una città italiana che volete visitare da tempo, vabbè, insomma, oltre all'albergo, al residence e alle consuete tradizionali luoghi di ospitalità, appunto, ci sono anche altri modi per viaggiare e risparmiare un po'. Lo scambio casa è uno di questi e sta prendendo sempre più piede nel nostro paese. Questo modo per ospitare persone che arrivano da altre parti del mondo mettendo a disposizione la nostra abitazione, in cambio ovviamente noi andiamo nella loro abitazione, nella loro città d'origine. E allora stamattina con noi due rappresentanti dei due più grandi, chiamiamoli così, intermediari in questo settore: Cristina Pagetti di scambiocasa.com e Giovanni Pugliatti di homelink.it. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretto, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Giovanni Pugliatti, ripartiamo dalla considerazione un po' polemica che ha fatto l'ascoltatore che citavo prima. Lui dice: dura scambiare un alloggio a quarto giaro con una villa a Beverly Hills. Ci sembra una considerazione abbastanza di buon senso, ma è possibile che per esempio due famiglie che si mettono d'accordo, magari si trovano molto bene caratterialmente, così da un primo impatto, magari da una telefonata, decidano anche se l'abitazione non è della stessa identica qualità, dimensione, grandezza e quant'altro, di fare lo scambio? È possibile? Sì, diciamo sicuramente, perché partiamo dal presupposto che è tutto relativo. Ovvero, per un americano le distanze sono un concetto diverso rispetto a un italiano. Una casa, per esempio, vicino a Venezia potrebbe essere distante anche 100 chilometri. Sono disposti in una giornata magari a visitarla anche tutta, per cui non è tanto importante il posto specifico, in quanto l'Italia è sempre l'Italia. E per il turista ha sempre il suo fascino, che sia campagna, che sia città. Ecco, c'è peraltro mi scusi, l'ho interrotta? Prego. No, dica pure. No, stavo così immaginando adesso anche le considerazioni che ha fatto Federalberghi sul flusso turistico che si è messo in movimento in questi giorni, approfittando di questo ponte legato alla celebrazione per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Uno scambio di case è possibile anche per periodi brevissimi, per esempio se in questi giorni qualcuno, approfittando di questo ponte, si fosse voluto mettere in viaggio per così approfittare di queste 2-3 giornate di vacanza, magari proprio approfittando anche della modalità scambio casa, sono previsti anche periodi molto molto brevi, come 3 o 4 giorni? Sì, sì, sicuramente. Diciamo che l'iscrizione, che è annuale oppure per 2 anni, prevede la possibilità di scambiare per qualunque periodo, può essere 2 giorni come diversi mesi. L'importante è trovare una persona che sia disposta a fare altrettanto. Ecco, perché il problema è quindi ecco, trovare due identiche necessità, in sostanza, che si incontrino. Sì, o anche diverse, nel senso che io posso chiedere a una persona di New York di ospitarmi per esempio un paio di giorni e dare in cambio una settimana, niente mi vieta di fare questo. Mm-hmm. Perché molti nostri iscritti per esempio preferiscono organizzare una vacanza in diverse tappe. Ecco, ha detto una cosa Pugliatti, appunto, l'iscrizione al sito. Cristina Pagetti, perché ovviamente non è che qua noi, andando nella casa di un nostro nuovo amico che magari sta in California piuttosto che in un'altra città, in un'altra capitale europea, dobbiamo pagargli l'affitto. Lo scambio è totalmente gratuito, ma si paga l'iscrizione al vostro sito. Al vostro, come esatto. Quello di Homelink. Sì, Pagetti, ero andata a scambio casa. Scambiocasa.com costa per 3 mesi 32 euro. Per un anno intero invece 84. Se durante il primo anno non si fanno scambi, il secondo è gratis. Ho visto che avete messo in campo un'iniziativa promozionale soprattutto per le vacanze di Pasqua, così magari invogliando i vostri già utenti a scoprire le capitali europee. Sì. Diciamo che la tendenza che abbiamo riscontrato tra i nostri soci ultimamente è quella dei piccoli scambi, brevi scambi, magari anche per conoscere il nostro bel paese. Un esempio: io nelle vacanze di Natale sono stata da un socio a Firenze e poi loro sono venuti da me perché volevano vedere delle mostre a Milano. E io a casa loro ci sono stata 5 giorni e loro da me una settimana. E diciamo che è un fenomeno emergente quello degli scambi tra italiani, magari per andare a Roma a vedere una mostra o anche per portare i figli un po' qualche giorno in campagna. Quando si pensa allo scambio casa non bisogna per forza pensare alle lunghe tratte. Per quanto riguarda le proposte di Pasqua, l'Italia è la meta più richiesta dai nostri soci internazionali. e ci sono delle proposte allettanti appunto per le vacanze di Pasqua per i soci italiani. Ad esempio c'è un avvocato che a Parigi ha un bilocale a Montmartre e vorrebbe venire in Italia, oppure a Vail in Colorado sono disposti a lasciare la loro casa in qualsiasi periodo pur di venire a Pasqua in Italia, una seconda casa, e quindi con le seconde case gli scambi risultano ancora più flessibili, certo, in termini di date, perché possono avvenire anche in periodi non contemporanei. Allora, chiaramente chi si avventura in una vacanza di questo tipo è chiaro che lo deve fare perché ha capito alla lettera lo spirito di una modalità del genere di fare vacanza, e quindi è chiaro che si tratta sempre, almeno lo immaginiamo, tra l'altro i due siti fanno dei controlli estremamente accurati anche della qualità delle persone che si scambiano le abitazioni, perché è chiaro che non è che possiamo pensare di andare nella casa di un altro e poi quando ce ne veniamo via lasciare un disastro, rompere tutto, lasciare le cose sporche, per cui è chiaro che prima di tutto si fa un monitoraggio molto attento anche delle buone abitudini delle persone. Detto questo, relativamente alle altre perplessità che gli ascoltatori si pongono, adesso le solleviamo subito direttamente con i nostri amici che ci seguono da casa, 800 24 00 24, per i vostri interventi in diretta. Allora cominciamo con Raffaele dalla provincia di Salerno. Buongiorno. Raffaele, buongiorno. Sì, buongiorno. Salve, io volevo chiedere proprio rispetto a un discorso assicurativo. Nel momento in cui io accedo a questo servizio ho bisogno di fare un'assicurazione, di garantire alla parte con cui vado a scambiare casa un'assicurazione, ma sia per una reciproca garanzia nel momento in cui poi esco dalla casa, potrei trovarmi, ripeto, con un problemino, qualche attrezzatura della mia casa, piuttosto che eventualmente qualche danno alle persone che potrebbero poi coinvolgere. C'è un obbligo di assicurazione? C'è il servizio che lo garantisce? Link? Questa è la domanda. Grazie Raffaele, andiamo subito ai nostri amici. Allora Giovanni Pugliatti di HomeLink. Dobbiamo fare in modo anche che le assicurazioni scoprano questo nuovo segmento per fare business. O garantite voi? Diciamo che per noi c'è la possibilità di sottoscrivere un'assicurazione aggiuntiva all'iscrizione all'associazione. Come precisava giustamente l'ascoltatore, si tratta comunque di un'assicurazione che copre quei piccoli danni che possono capitare all'interno di una casa, non solo a chi scambia casa, ma anche a chi ospita una persona qualunque, una rottura di una maniglia, come di una chiave, piccole cose, e quindi copre l'intervento magari dell'idraulico, dell'elettricista. In aggiunta a questo servizio assicurativo abbiamo anche istituito da poco un fondo di garanzia che copre ulteriori eventuali danni o problemi che comunque sono molto esigui. Lo gestite voi, Pugliatti, questo fondo di garanzia? L'assicurazione è diretta, dipende da una, appunto, un'agenzia assicurativa per legge obbligatorio. Il fondo di garanzia invece dipende da noi. Allora, Cristina Pagetti, per quello che riguarda invece scambiocasa.com, il settore assicurativo, dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori? Sì, allora noi automaticamente assicuriamo tutti i soci per le spese di annullamento del viaggio, e questo non costa nulla loro. E invece l'organizzazione... Cioè, nel caso in cui una famiglia si trovasse improvvisamente nell'impossibilità, certo, di partire, praticamente allora quello è coperto, sì. Sì, quello è coperto. Invece per quanto riguarda le piccole spese per gli eventuali danni interviene direttamente l'organizzazione internazionale. Noi abbiamo messo a punto una cosa che funziona molto bene, che è il feedback. E praticamente dopo che ho fatto uno scambio con qualcuno lascio un feedback in cui dico come è andato lo scambio e come mi sono trovata. Per cui quelle schede che hanno tanti feedback positivi vuol dire che sono persone affidabili. Questo meccanismo di feedback non è nuovo, su internet è molto utilizzato, specialmente nei siti delle aste online. Delle aste online, ma anche delle agenzie tipo Expedia, certo. Voglio dire, insomma, la reputazione, sì, e il passaparola delle persone che hanno avuto un impatto diretto con esperienze è assolutamente forse la cosa della quale ci fidiamo di più. C'è, a proposito sempre degli standard qualitativi, leggevo invece sul sito di HomeLink che loro dicono: l'etica per noi è la cosa più importante, chi scambia a casa sa già come comportarsi, deve compilare un accordo di scambio prima della partenza, la scheda di valutazione al rientro. Tutto questo aiuta a tenere tutto sotto controllo. Ad un primo reclamo la famiglia contestata viene richiamata, se i reclami sono due viene cancellata dalle nostre liste. Andiamo a Maria Grazia da Milano, che ci racconta la sua esperienza. Maria Grazia, buongiorno. Un'esperienza abbastanza lunga e con Homelink ed estremamente positiva. Ah bene, dove è andata intanto e chi ha ospitato? Nuova Zelanda, Australia, Canada, un mese per ogni paese, Parigi, ripeto, sempre a Turchia, molto molto bene, una veduta sul Bosforo, una cosa meravigliosa. Uh-huh. Comunque vorrei sottolineare quello che secondo me è l'aspetto più importante che non è stato toccato. Il risparmio non è la prerogativa massima dello scambio di casa. È piacevole naturalmente non pagare un albergo, chiaro, ma è soprattutto l'esperienza diversa, cioè si vive la vita dei paesi, cioè questo non vale naturalmente per gli scambietti da 3 giorni, ma come ho fatto io con un periodo piuttosto lungo, magari mi sono illusa, ma io credo la realtà australiana di averla capita molto, ma molto meglio che non stando in un albergo. Beh, certo, diciamo che con questa modalità si è potuta permettere magari, Maria Grazia, una vacanza proprio con l'obiettivo di conoscere bene quella realtà di più di un mese, magari chiaramente stando tutto il mese in un albergo, forse il budget destinato a questa vacanza sarebbe stato molto diverso. Certo. Quindi però è chiaro che ci sono tutti gli aspetti. Facendo la spesa tutti i giorni al supermercato, se vogliamo, è un'esperienza di microeconomia, che però dice moltissimo. Poi per il discorso quarto giaro Beverly Hills, sì, non esiste, perché la scheda di Homelink è talmente capillare, per cui avere delle sorprese direi che è quasi impossibile. Certamente. Maria Grazia, invece lei chi ha ospitato, chi ha, a chi ha lasciato visitare Milano potendo utilizzare la sua abitazione? No. Io ho lasciato la mia seconda casa di Santa Margherita. Ah ecco, quindi la Liguria, perfetto. Che è molto appetita dagli anglofoni. Ah, dagli anglofoni, molto bene. Si è trovata bene, ha trovato qualche volta qualche problema? Nessun problema, assolutamente. E infatti, Maria Grazia, grazie molto e continui così, insomma, si è divertita molto. Pugliati, credo che insomma uno spot pubblicitario più bello di quello che le ha fatto Maria Grazia non sarebbe stato possibile neanche ad organizzarlo. Però ha riassunto molto bene chiaramente lo spirito che è alla base di un'iniziativa di questo tipo, perché vedo che invece molti ci scrivono, ma insomma sono delle cose fuori dal mondo, non capisco adesso cos'è questo modo di inventarsi la vacanza, non ci siamo inventati niente peraltro, perché è dal 53 che la fanno in giro per il mondo. Pugliati. Sì, diciamo che addirittura la tipologia può essere dal Medioevo addirittura ricondotta, è una tipologia sicuramente molto affermata, in Italia cresce sempre di più, nel mondo anche, ma appunto l'Italia ha ancora questa concezione del focolare domestico e fa un po' più fatica a scambiare, di solito inizialmente si comincia magari con una seconda casa, poi ha apprezzato, come diceva la signora, la tipologia della vacanza e la cultura dell'altro popolo e il modo in cui si riesce a entrare nella cultura, comincia poi a scambiare anche la prima, entra in un vortice dal quale non riesce più a uscire. Non riesce più, infatti. Allora, tra l'altro, invece, sempre visitando i vostri siti, ho trovato questa parte su scambiocasa.com. C'è anche tutta una serie di consigli per chi intende scambiare casa. Per chi effettivamente ha la prima esperienza, Cristina Pagetti, magari è bene che parta mentalmente predisposto, no? Con un'esperienza di questo tipo. Che cosa deve fare? Beh, innanzitutto far trovare una casa pulita in ordine, mettere da parte gli oggetti fragili, se nello scambio ci sono dei bambini, far trovare qualcosa anche per loro, qualcosa nel frigorifero per chi magari arriva la sera tardi e la mattina dopo deve fare colazione, lasciare un elenco con tutti i numeri utili per le emergenze. Poi nelle schede è sempre indicato molto chiaramente se si è disposti a prendersi cura degli animali, delle piante. Alla fine del soggiorno lasciare 2 righe di saluto, giusto per dire grazie, a casa tua sono stata molto bene. Poi una cosa importante, non tutti concepiamo e viviamo la casa nello stesso modo. Se arrivo a Parigi e non trovo il bidet ma trovo la doccia, va benissimo, insomma. Uno spirito di adattamento fa sempre bene e quello che è importante, come diceva la signora che ha telefonato, è quello che ne deriva in termini di esperienza culturale. Penso che questo non abbia pari. Certo, diciamo che se uno va a Parigi o a Londra e non trova il bidet nel bagno della casa che ospita questa famiglia, non può certo poi attribuire e contestare ai siti di riferimento questa cosa, perché voglio dire, quantomeno questa la conosciamo, la sappiamo. È chiaro che si può contestare una grossa sorpresa del tutto inaspettata e spiacevole e negativa. Massimo da Pavia non è proprio convinto di questo modo di fare vacanza. Massimo, cosa non le piace? Buongiorno. No, ma io sono estremamente polemico di natura, quindi figuriamoci in un caso del genere, no? Perché voglio dire, ma allora i casi sono due. Uno deve andare un mese, come ha detto l'ascoltatrice prima, per viversi, per calarsi nella realtà del luogo. Massimo, può abbassare la radio? Cortesemente, grazie. Ma allora a questo punto qua io affitto un appartamento mobiliato e non vado a casa di nessun altro. Oppure l'altro caso, 4-5 giorni, come l'esempio prima, l'avvocato di Londra che vuole venire 4-5 giorni in Italia. Ma io per 4-5 giorni, se l'avvocato di Londra non ha la possibilità economica di venire in Italia a pagarsi l'albergo per 4-5 giorni, voglio dire... Massimo, però no, ma lei ha detto una cosa, forse non ci siamo capiti. Lei affitta un appartamento immobiliato, ma lei può fare le scelte che vuole naturalmente. No, però con lo scambio della casa non paga l'affitto. Ma è evidente che non paga l'affitto, però il contraltare è che io ho degli sconosciuti che possono essere brave persone, possono essere anche dei luridi sporcaccioni che vengono a lavarsi nel mio bagno per 15 giorni. Tanto è vero che abbiamo spiegato. Stiamo parlando, sono reminiscenze dell'epoca dei figli dei fiori, fuori del mondo. Massimo, ma guardi, queste sue considerazioni appartengono a molti altri che ci stanno scrivendo. Allora, intanto, chiaramente fare lo scambio della casa per fare la vacanza non è obbligatorio per nessuno, è solo un'opportunità. E da quello che capisco, Cristina Pagetti, adesso non mi ricordo se l'ho trovato sul vostro sito, su quello di Homelink, però il tema è essere anche estremamente open mind e quindi essere aperti ad esperienze di questo tipo e non perché qui c'è un atteggiamento di chiusura totale, chiaramente, e quindi una persona così può andare solamente in albergo, e io vorrei vedere insomma anche con il direttore di quell'albergo quanti problemi. Vabbè, comunque a parte questo, Pagetti, concludiamo rassicurando anche un po' i nostri ascoltatori. Sì, a questo signore vorrei dire che ci sono tanti modi di vivere la propria vita come di vivere la vacanza. C'è chi ama andare a fare avventure nel Centro Africa, c'è chi invece si accontenta di rilassarsi su una spiaggia dell'Adriatico. Chi per esempio fa le vacanze con avventure nel mondo e si ritrova in aeroporto pronto a partire con 15 persone di cui non ha mai sentito parlare, ci deve dormire per un mese? Io credo che sia quella un po' più rischiosa di esperienza che... No, non lo so, poi magari questa è una considerazione mia. No, io dico che fare scambio casa è un modo per immergersi nella cultura del luogo. E se tu vai e ti affitti la casa all'estero non è la stessa cosa, perché non ci sono i vicini che magari ti vengono a trovare e ti invitano a cena, come è successo a me spesso andando in giro per il mondo. È un modo di vivere diverso la vacanza, può piacere o non può piacere, su questo siamo d'accordo. E infatti, allora noi dobbiamo andare adesso già verso la conclusione, abbiamo la nostra rubrica sul risparmio gestito, un'ultima considerazione. Ho fatto raccontare a Cristina Pagetti quali sono le proposte di scambiocasa.com per Pasqua, la scoperta di capitali europee. Homelink, Pugliatti, voi avete fatto qualcosa di particolare in 10 secondi? Sì, sicuramente abbiamo delle offerte aggiornate costantemente nel nostro sito, nella home page, e in questo momento sto vedendo un'offerta per Rimini per Pasqua. Che alterniamo di solito l'Italia ai paesi esteri, perché facciamo un po' i patriottici stamattina, va, che così almeno accontentiamo anche chi ci ascolta e rimaniamo in linea con le celebrazioni di oggi. Allora, ieri abbiamo dedicato l'intera puntata al tema del Salone del Risparmio, un appuntamento che si svolgerà il 6, il 7 e l'8 aprile a Milano, il più importante evento italiano dedicato al settore del risparmio gestito. Noi abbiamo istituito questa segreteria telefonica che vi invito ad utilizzare, chiamate all'800 28 12 12, lasciate lì le vostre domande. La domanda specifica che vi invitiamo a fare è: che cosa vorreste chiedere al vostro consulente in tema di risparmio gestito? Quella domanda che non gli avete mai voluto fare per pudore, per mancanza di coraggio. Noi continuiamo a rispondere ai vostri quesiti, sentiamo l'ultima domanda. Radio 24 e Assogestioni presentano Le domande del risparmio. Sì, pronto, buongiorno, sono Camilla da Varese. Volevo farvi una domanda, magari vi potrà risultare un po' banale. Io volevo capire se è possibile sapere giorno dopo giorno quanto rendono i fondi. Grazie, arrivederci. Ogni giorno il valore della quota di un fondo, in gergo tecnico NAV, viene pubblicato sia sui quotidiani che online. L'investitore dunque può sempre sapere quanto vale il suo investimento e se si apprezza o si deprezza, dunque se guadagna o meno. In base alla normativa italiana, infatti, le società di gestione devono valorizzare il patrimonio con cadenza almeno settimanale. La maggior parte però esegue questo calcolo quotidianamente, secondo regole predefinite. Il prezzo è ottenuto dalla somma del valore corrente di tutti i titoli in portafoglio, al netto delle spese, diviso per il numero totale delle quote. Per i fondi italiani, il NAV pubblicato è quello di due giorni prima, perché è soggetto a tutta una serie di controlli che non permettono di avere il valore di chiusura del giorno stesso. Per gli esteri, il ritardo è di un giorno. La pubblicazione quotidiana del prezzo della quota è utile per conoscere il valore al quale si acquista e si vende. Salone del Risparmio, a Milano dal 6 aprile. Iscriviti gratis. salonedelrisparmio.it. vi ha presentato Le domande del risparmio. Come ci capita spesso, tutte le domande attinenti al tema principale di Salvadanaio arrivano nell'ultimissima parte del programma. Tutti gli ascoltatori che ci hanno inondato adesso di messaggi sullo scambio casa, andate sui siti di scambiocasa.com e homelink.it, home casa, quindi link casa con la K, e troverete tutte le risposte, perché vedo che sono delle domande diffusissime, quasi tutte dello stesso tipo. C'è: io non ho una casa di proprietà ma in affitto, posso farlo lo stesso? Se uno ha uno spazio può ospitare senza andarsene di casa? Tutte domande a cui troverete risposte nei siti di Cristina Pagetti e Giovanni Pugliatti. Grazie per essere stati con noi. Salvadanaio torna, torniamo domani, sì, che è venerdì. Buona giornata a tutti.